Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro, una puntata nella quale, senza pretesa di chiarire o chiudere la triste vicenda dello sversamento doloso di oli combustibili nel Lambro, vi racconteremo il nostro viaggio sul Po tra le province di Parma, Cremona e Piacenza. L'abbiamo compiuto 3 giorni dopo il disastro e l'abbiamo fatto proprio così, da valle a monte, per vedere come l'onda nera avanzava e cosa lasciava dietro di sé. Alle 7.30 del mattino, sotto la pioggia, Polesine Parmense è deserta. Sul fiume che scorre vicino al paese, al di là degli argini, non c'è nessuno, solo qualche mezzo dei vigili del fuoco. Incontriamo per caso il sindaco del paese al bar, una tazzina di caffè in una mano, una brioche nell'altra. Con l'architetto Andrea Censi torniamo subito al Po. Un cartello con la scritta motonautica indica le ambizioni di questo piccolo centro, ma oggi non è cosa. L'acqua è sporca e puzza di gasolio. Qui c'è un quadro complessivo generale che davvero ha delle criticità presenti adesso, e ne presenterà, penso, purtroppo ancora di più, delle criticità su tutti i fronti, ambientali in primo luogo sicuramente, però appunto dal punto di vista economico, perché per recuperare questo danno, quindi per riuscire a riequilibrare, in particolare con una prima, diciamo, pulitura delle sponde, poi dopo comunque con una verifica delle acque. La domanda è anche sui fondali, ad esempio, cioè questo è un intervento poi che dovrà esserci, che porterà anche un investimento purtroppo di proporzioni spaventose per un comune come il vostro, ma anche per tutti i comuni dell'area. Sì, infatti, assolutamente. Quando siete stati avvertiti e cosa vi è stato chiesto di fare nello specifico? Ma secondo me, ecco, qui possiamo dire che probabilmente, ma e fuori di polemica assolutamente, perché non è questa né la sede e non è volontà, penso, di nessuno, men che meno mia, di far polemiche, però c'è stata oggettivamente, se ritengo, nella prima fase di allerta, in un primo momento dell'evento, una quasi sottovalutazione della portata dell'evento. Anche il tam-tam, diciamo, tra i livelli istituzionali e il coinvolgimento anche delle prefetture e così via, ha avuto una tempistica, diciamo, non correlata alla velocità del danno. Come comuni della Valle del Po, non esiste un qualche tipo di standard precodificato per qualunque tipo di emergenza su questo fiume? Allora no, io ritengo che da questo punto di vista il sistema protezione civile sia un sistema che in questi anni ha fatto passi da gigante, per l'amor di Dio. E ritengo, io per quello che conosco, la rete Emiliano-Romagnola assolutamente efficace. Io con l'assessore Ferrari della provincia di Parma ci siamo sentiti subito nella serata del 24. E ritengo che in questa occasione, anzi, ci sia stato più un'azione che è arrivata più dal basso, diciamo, no? appunto dai comuni, che insieme si sono coordinati, però con dei protocolli che ormai, diciamo, sono stabiliti da alcuni anni, quindi l'attivazione del COC per ogni comune, cioè il centro operativo comunale, la provincia ha attivato il COM, quindi il centro operativo misto e quello provinciale. E la regione chiaramente col suo sistema era già ampiamente allertata. E probabilmente, diciamo, c'è stata una sottovalutazione da parte di altri di quello che era la gravità del problema, e in qualche modo, in qualche momento, forse anche da parte di qualche soggetto, forse anche un po' di scoraggiamento nel affrontare l'evento, perché effettivamente la tipologia del danno è una tipologia che ha colto forse un po' tutti impreparati. Si aspetta l'alluvione dal Po, o dal Lambro anche, ma non lo sversamento di gasolio. Adesso, io a memoria mia, io ho 36 anni, non ricordo un evento del genere sul fiume. Ci sono stati sicuramente, da sempre ci saranno, piccoli eventi, diciamo, molto localizzati, dove le persone, faccio un esempio, non so, di tutti poi i reflui anche agronomici, no? Insomma, però che hanno un'incidenza, insomma, che il fiume riesce ad assorbire in brevissimo tempo, anche se sono comunque ripetuti come numero, un elemento comunque di criticità. Ma un elemento singolo di questa portata, non, a mia memoria, non c'è mai stato. Fate qui allora nelle prossime ore. Monitoriamo comunque le sponde, per il resto poi sarà il focus che si farà da qui a qualche giorno a dirci come operare nei prossimi giorni. In quel momento il monitoraggio era affidato a un drappello dei Vigili del Fuoco di Parma guidato dal caposquadra Lena. Con le piogge che sono state e anche la neve che è venuta, che alzandosi le temperature, quindi col disgelo, il Po sicuramente si è alzato rispetto a, cioè è una stagione che sicuramente l'acqua è, ce n'è tanta, insomma. E quindi adesso il problema grosso è che tutto questo materiale vada a finire nel mare. A voi che tipo di carburanti sono questi? Vi è stato specificato, insomma, nel... solo gasolio. No, è un idrocarburo sicuramente, ma che si avvicina molto al gasolio. Lasciamo Polesine Parmense augurandoci che il fiume superi la crisi e possa presentarsi pulito all'estate, il momento in cui tutti i campi che vediamo susseguirsi a perdita d'occhio avranno bisogno delle sue acque per irrigare, e partiamo alla volta di Cremona. Qui il fiume tange la città. Il sindaco Oreste Perri, l'ex campione mondiale di canoa, ha suggerito ai concittadini di non passeggiare lungo le rive per non respirare le esalazioni. Ma qualcuno c'è comunque. L'acqua scorre veloce, il gasolio o quello che è, non si deposita come nel Parmense, ma si vede e si sente. Quelli che hanno fatto questo lavoro, ma fucilati subito. Ah, eccola lì, sì. Dove? Dove c'è è parecchio. Guardala lì. Centri sportivi e ricreativi del lungo fiume sono deserti. Antonio Biffi è il direttore della Canottieri Baldesio. La situazione ovviamente è pesante, anche perché l'ordinanza di due giorni fa, di 48 ore fa, ci ha praticamente proibito quello che è la navigazione sul fiume Po. C'è un'ordinanza dell'AIPO e c'è un'ordinanza del sindaco che vieta la navigazione sul fiume con barche da diporto e motore, perché abbiamo dovuto ritirare tutte le barche sui pontili, cercando di metterle in sicurezza per evitare che si sporcassero, per evitare che danneggiassero o che ostacolassero il defluire della massa oleosa. Dopodiché è arrivata una seconda ordinanza ieri a mezzogiorno che diceva appunto di evitare e invitava naturalmente le canottieri ad adottare tutti i provvedimenti del caso, di evitare che i soci andassero sul lungo Po e inalassero gli odori di idrocarburi, per cui abbiamo dovuto chiudere gli accessi a Po. E avete pescato l'acqua dal Po per qualche attività? No, assolutamente no. Abbiamo dei pozzi molto profondi che per il momento non hanno subito danni, ecco. Giudicate che l'allarme vi sia stato dato in tempo? L'allarme è stato dato abbastanza in tempo, diciamo tra virgolette, ecco, probabilmente c'era più ottimismo sul fatto di poter fermare la massa oleosa a monte. Mario Ferraroni, presidente della Canottieri Baldesio. L'ottimismo che c'è, fermiamo tutto a Ferrara, state tranquilli che nell'Adriatico non arriverà niente. Io mi chiedo, visto che sono 48 ore che passano queste macchie, l'Adriatico sarà stato sicuramente già colpito. Passeggiando lungo il fiume incontriamo proprio il sindaco di Cremona, Perri. Non ha tempo di fermarsi a parlare però, scappa a Isola Serafini, vicino a Piacenza, dove c'è la diga dell'Enel. È là che si sta cercando di bloccare la massa oleosa sfruttando le chiuse della diga. Lo seguiamo a sprombattuto e posteggiamo appena in tempo per veder sopraggiungere un corteo di auto. È arrivato il capo della Protezione Civile Bertolaso, reduce dall'ennesimo incontro alla prefettura di Piacenza con gli amministratori locali. Bertolaso dispensa ottimismo, dice che quello che abbiamo visto a Cremona e nel Parmense è al massimo il 10% del totale dei carburanti sversati. Stiamo facendo una stima, è stata fatta anche un'aereofotogrammetria di tutto il fiume, dalla foce fino proprio qui alla barriera, e che sarà verificata e controllata questo pomeriggio. Diciamo che i tecnici stimano che al massimo possa essere sfuggito un 10%, proprio al massimo, di quello che è arrivato qui alla barriera, problemi quindi non moltissimo. Per l'irrigazione, problemi? Al momento non ce ne sono, potrebbero essercene in futuro, ma stiamo facendo fare i controlli, l'analisi della qualità dell'acqua, si stanno facendo i prelievi continui e quindi al momento non vi sono segnali preoccupanti. Si tratta di vedere nei prossimi giorni quale sarà un po' anche l'evolvere della situazione, però diciamo che è tutto sotto controllo e sono ottimista per riuscire a risolvere tutto il problema nel corso dei prossimi giorni. Ma questo fenomeno di inquinamento è un fenomeno che richiederà ancora attenzione, studio e anche approfondimento per quelle che sono le lezioni che dobbiamo imparare ogni volta che succede qualche cosa del genere. Quando io sono stato chiamato sono arrivato dopo un'ora, quindi per quello che mi riguarda il ruolo della Protezione Civile Nazionale è stato, e credo lo possano dire le autorità locali, tempestivo ed efficace. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità subito, ma poi non è che noi possiamo andare a inserirci in quelle che sono attività che le autorità locali portano avanti. Lo facciamo nel momento in cui ci viene richiesto di intervenire. C'è stata una sottovalutazione quindi a livello locale? Ma si sarà evidentemente pensato, riflettuto sulla possibilità di poter gestire la situazione a livello locale. Il problema è che quando si parla di corsi d'acqua, in particolare quando si parla di Po, vi sono molti soggetti che hanno diverse responsabilità, ma poi riuscire a individuare chi ha il cerino in mano diventa non sempre semplice. Io sono arrivato qua a Piacenza ieri pomeriggio, mi sono preso il cerino in mano su richiesta del Presidente della Regione e delle autorità locali e mi sembra che piano piano la situazione la stiamo risolvendo. Forse... questi sono fatti. Contro la diga il fiume ha spinto un muro nero di catrame. Forse sarà molto spesso, andrà in profondità, perché di certo non è tanto largo, un metro e mezzo al massimo. Sembra poco rispetto alla quantità rovesciata nell'ambro da quelle maledette mani misteriose. Il sole finalmente ha bucato le nuvole, il vento spazza la diga, l'acqua schiuma come il mare. Oreste Perri, il sindaco pluricampione, guarda cupo quel fiume sul quale ha tanto faticato in gioventù. L'ha un po' rassicurato questo incontro? Ma senz'altro rassicurato, nel senso che siamo, anzi ho visto i presidenti della provincia di Piacenza, i sindaci, col presidente della provincia di Cremona, siamo in contatto continuamente col prefetto, cioè siamo tutti uniti nell'affrontare questo grave problema, che è un problema di inquinamento dell'acqua ma anche dell'aria, perché poi questi idrocarburi, diciamo, inquinano anche l'aria. Infatti a Cremona abbiamo chiesto ai cittadini non avvicinarsi al fiume almeno in questo periodo. E l'unico problema è quello appunto dell'inquinamento del nostro fiume, che si era risollevato negli ultimi 20 anni dopo la trascuratezza che c'è stata nel passato, mi riferisco agli anni 70-80. Ci abbiamo messo molto riguardo, era pulito, bello, insomma, cominciava ad essere, a ritornare quel fiume di tanti anni fa, e adesso questo disastro ecologico non è una cosa che si risolverà in pochi giorni, cioè i lasciti di questo disastro rimarranno credo per un po' di tempo. Per lei che poi l'ha vissuto tanto il fiume, questo è ancora più doloroso, penso. Sì. È tutto per oggi, ci risentiamo la prossima settimana alla stessa ora. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata da Laura Bettini.